A Barumba, e questo l'ho detto bene, vero Paolo? È così. A Barumba, Paolo Travagnini e Nicola Buffa. Paolo e Nicola, noi tra sei minuti abbiamo un ospite al telefono. Allora, un pezzo forse tarato, diciamo, per questa durata, o due brevi, fate voi. Improvvisando. Di tutti e due, di Travagni e Buffa, esatto, Cipe Ciò. Travagni e Buffa, benissimo. L'abbiamo fatto insieme. Grazie, allora sentiamo questo, poi ci grazie sentiamo. Grazie a te. Poi ci facciamo i saluti. Certo.